9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, c'è una vicenda che mi ha molto colpito nei giorni scorsi e di cui ci occuperemo oggi per parlare di questa vicenda. Ci tengo in questa introduzione a evitare equivoci. Non voglio parlare di questa vicenda perché voi a casa pensiate che parliamo di altre vicende, anche se ovviamente il filone mediatico giudiziario ha un peso molto rilevante nella vita nazionale. No. Io ho scelto di parlare di questa vicenda perché questa vicenda mi ha molto fatto riflettere quando esplose sui giornali, perché ho continuato a seguirla e perché di fronte alle sentenze di primo grado che sono arrivate, credo che per ciascuno che faccia il mestiere che faccio io, informazione, quando avvengono cose di questo genere si pongono inevitabilmente dei problemi molto seri, pensando a ciò che possiamo fare alla vita della gente, ciò che possiamo fare alla loro dignità, alla loro libertà, al loro patrimonio, alle loro famiglie, a ciò che hanno fatto in una vita intera, ai valori che credevano di avere costruito e alla riconoscenza, al merito che credevano per questo di essersi conquistato. E di che cosa sto parlando? Sto parlando di un caso che esplose nel 2008 sui giornali. Come esplose? Vi facciamo sentire, ne abbiamo scelto uno tra i tanti, non è una scelta particolare di testata. Comunque questo era il servizio del TG3 che annunciava la retata. Il terremoto che ha scosso il comune di Napoli era nell'aria da giorni. Le cifre dell'inchiesta sono pesanti. 13 ordinanze di custodia cautelare, finora per un appalto da 400 milioni di euro. 2 parlamentari coinvolti. Le accuse vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, alla corruzione e all'abuso d'ufficio. Il tutto dietro un'unica sigla, quel Global Service, che da giorni ormai era diventato lo spauracchio della politica partenopea. Tra i 13 arresti, l'unico in carcere è Alfredo Romeo, l'imprenditore che avrebbe dovuto beneficiare dell'appalto milionario relativo alla manutenzione delle strade e dell'edilizia della città. Secondo l'accusa, l'appalto era disegnato su misura per fare in modo che la Romeo Immobiliare non potesse perderlo. Tra quelli agli arresti domiciliari ci sono anche 2 ex assessori, Enrico Cardillo, che aveva la delega al bilancio, e Giuseppe Gambale, ex parlamentare con delega all'istruzione. Ai domiciliari anche 2 assessori in carica, Ferdinando Di Mezza, che si occupa di patrimonio e manutenzione degli immobili, e Felice Laudaddio, assessore all'edilizia. I 2 parlamentari coinvolti invece sono l'esponente del PDL Italo Bocchino e quello del PD Renzo Lusetti. Per loro il GIP ha chiesto la possibilità di usare le intercettazioni che li coinvolgono. Insomma, un vero terremoto per la giunta comunale. Il sindaco Rosa Russo Iervolino questa mattina ha voluto incontrare i giornalisti. Ecco, questo era stato il modo in cui i telegiornali hanno dato notizia di quello che avveniva e che poi è diventato il caso Romeo, il caso della Global Service. Per giorni, anzi per settimane, mentre Romeo stava in carcere per 80 giorni e i domiciliari riguardavano tutti gli altri colpiti da custodia cautelare, i giornali picchiarono molto duro sulla Global Service, su questa impresa che viene descritta come un reticolo di illegalità capace di avvincere intorno a sé non solo comune, provincia, regione campana e Napoli, ma Roma, con addentellate insomma in tutta Italia. Dopodiché siamo arrivati anche a un suicidio, lo voglio ricordare, Giorgio Nunes, assessore, anche egli 46enne, padre di 2 figli, che era stato assessore alla protezione civile, si impiccò nella sua casa appendendosi a un'inferriata a pianura fuori Napoli, non ci dimentichiamo anche di lui. E siamo arrivati al sentenza di tutta quella vicenda che portò naturalmente al sequestro ad Alfredo Romeo di ingentissimi beni, al blocco praticamente delle attività o quasi delle sue società, come inevitabile tutte le volte che provvedimenti della magistratura che sono convinti di aver messo nel mirino reticoli di illecito di questa portata scattano nei confronti di un imprenditore corruttore, dei suoi amici e sodali politici collusi. Ebbene, il Che cosa avviene il venerdì della settimana scorsa? Avviene che si arriva alla sentenza e Alfredo Romeo, degli 12 capi di imputazione che gli erano stati elevati e contestati, di cui naturalmente il primo è il più grave anche per ottenere più facilmente i provvedimenti di custodia cautelare, come si usa fare in queste indagini da quello dell'associazione per delinquere, ebbene 11 dei 12 capi di imputazione cadono e dal procedimento escono senza macchie tutti, praticamente tutti gli altri implicati, tutti, la sua collaboratrice Paola Grittani, il docente universitario Guido Russo, gli ex assessori comunali Giuseppe Gambale, Ferdinando Di Mezza, Enrico Cardillo, Felice Laudadio, tutti, l'ex vicepresidente della provincia Antonio Pugliese, i funzionari comunali che erano stati a propria volta investiti dalle indagini, Vincenzo Salzano, Luigi Piscitelli, il funzionario della provincia Biagio Vallefuoco, tutti quanti, tutti prosciolti. Poi naturalmente viene prosciolto anche l'onorevole del PDL, lo avete sentito nell'annuncio del TG3 Amedeo La Boccetta, il colonnello della Guardia di Finanza Vincenzo Mazzucco, il geometro Niccolò Buratto, il funzionario Salvatore Russo. Che cosa avevano chiesto i pubblici ministeri? Avevano chiesto ai pubblici ministeri napoletani, Vincenzo D'Onofrio, Raffaello Falcone e Pierpaolo Filippelli, avevano chiesto per Romeo 10 anni di reclusione, 7 per Grittani, 6 anni e 8 mesi per Guido Russo, 6 anni per Gambino, Balle, Di Mezza, Cardillo, per i politici e così via, perché l'associazione a delinquere ovviamente aveva giustificato richieste di questo tipo, perché Romeo aveva messo in piedi, secondo l'accusa, un sistema blindato in grado di pilotare in suo favore appalti milionari, anche se poi in realtà questo appalto a Napoli della Global Service per la manutenzione globale delle strade non c'era mai stato, perché la tesi dei pubblici ministeri che l'affare non era scattato a giudizio della procura proprio a causa della fuga di notizie che aveva pesantemente inquinato la primissima fase dell'indagine quando uscirono notizie. Quindi, per così dire, l'indagine, grazie alla fuga delle notizie, cioè alla violazione del codice, era riuscito a sventare esattamente quella perfetta macchina di corruzione pubblica per la quale comunque tutti furono acchiappati e messi dentro. E però ora siamo a questa sentenza. Di fronte a questa sentenza, che naturalmente è inutile che ve lo dico, è una legge dell'informazione, non ha affatto avuto lo stesso rilievo, la stessa eco che ha avuto per settimane e anzi per mesi la campagna battente nei confronti di Alfredo Romeo e di tutti i politici implicati, siamo le solite, perché dobbiamo porci il problema. Il fondamento di un'indagine come questa era un fondamento di fronte al quale tutto ciò che possiamo dire è che del resto per questo esiste poi il dibattimento, e quindi non dobbiamo stupirci né crederci nulla dei toni, delle modalità che abbiamo usato nei confronti di Romeo e di tutti i politici implicati, oppure invece non dobbiamo obbligatoriamente porci un problema. E di che tipo? Per noi giornalisti? Per i pubblici ministeri? Bisogna partire da questo caso concreto, ricordando che oltre ad Alfredo Romeo e ai politici, molti dei quali naturalmente hanno smesso di fare politica, né mai ricominceranno, ed è inutile dire che i danni a Romeo sono stati ingenti. Al di là di questo, chi ci restituirà poi Giorgio Nunes, che non c'è più? Ma al di là di tutto questo, abbiamo voluto occuparci oggi di questa vicenda perché mi sembra giusto non proiettare da essa, lo ripeto, voglio ribadirlo perché a casa non capiate male, non sto parlando di Berlusconi e della campagna elettorale, sto parlando di un caso però concreto che è arrivato a sentenza, che ha un ribaltamento totale rispetto alla richiesta del PM, perché Romeo e Mautone, l'ex provveditore alle opere pubbliche, anche loro erano coinvolti in realtà per un solo dei 12 capi di imputazione ha preso una condanna per avere raccomandato due operai rispetto a tutto il resto del castello accusatorio. Secondo me ci pone comunque alcuni interrogativi, perché questo tipo di procedimento mediatico giudiziario effettua un processo e irroga condanne che prescindono da quelle che verranno o non verranno, come in questo caso, nel dibattimento, e purtroppo lo fa in una maniera spietata, irrisarcibile, a cominciare da Giorgio Nunes, che non c'è più, a continuare per i danni alla dignità, alla libertà e al patrimonio di tutti coloro che vengono colpiti da questo. Ma mi si potrà dire, la giustizia funziona così, come si vede nel processo. poi sono stati assolti. Sentiamo che cosa pensano i protagonisti di questa vicenda e sentiamo che cosa possiamo fare comunque per rendere giustizia a quelle sanzioni irrogate irredimibilmente, non nel processo, ma intorno al processo, prima del processo, con titoli martellanti del tipo la banda dell'asfalto, il remida che tocca e trasforma tutto in oro. Sto citando titoli, ho qui un pacco di articoli, e ripeto, non erano solo dei giornali giustizialisti, era una bella gara tra tutti a seguire in questo luogo comune le tesi dei pubblici ministeri, ovviamente, che io non voglio criticare, non voglio accusare, non voglio additare all'udibrio pubblico, ma fatto sta che hanno naturalmente annunciato il ricorso rispetto alla sentenza di primo grado. Parentesi, è un ordinamento civile quello in cui di fronte a un proscioglimento in primo grado i pubblici ministeri possono appellarsi? Io dico di no, per il semplice fatto che poi c'è un secondo giudizio di merito, l'appello, ma non ce n'è un terzo. Se il terzo è di legittimità alla Corte di Cassazione, e se io vengo prosciolto in primo grado e poi mi si rigiudica nel merito e vengo condannato, come faccio? Lì mi fermo? Questo è il classico esempio, la possibilità di appellarsi ad assoluzione di primo grado consentita al PM, che avevano un senso forse nel processo secondo il rito inquisitorio, non ne hanno più, anzi sono un controsenso totale, assoluto nel rito accusatorio che ci siamo dati con il nuovo codice. Fine della mia troppo lunga introduzione. Gli ospiti di oggi, abbiamo collegati con noi innanzitutto l'avvocato, il legale di Alfredo Romeo, l'avvocato Bruno Von Arx. Buongiorno avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi. Abbiamo Giuseppe Gambale, già parlamentare, ex assessore comune di Napoli, tra gli investiti dall'indagine assolto, tornato a fare il suo mestiere in ospedale. Buongiorno Gambale. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Amedeo La Boccetta, deputato PDL. Buongiorno La Boccetta. Buongiorno a tutti voi. Allora, avvocato, partiamo da naturalmente lei ci può parlare del procedimento, della vicenda, deve misurare le parole rispetto, però insomma in questo caso cosa bisogna pensare? Solo onore al merito, al fatto che poi c'è un giudice rispetto ai PM, oppure non si può evitare in qualche maniera questo tipo di condanne irredimibile che poi non si possono risarcire neanche di fronte alla soluzione? Ma senz'altro, io ritengo che questo caso, come tanti altri, sia frutto di una precisa sottocultura del processo. È quella che esaurisce la giurisdizione nella individuazione di un fatto, dimenticando che l'aspetto più importante del giudicare è rappresentato dalla attribuzione della giusta rilevanza penale a quel fatto. Occorre cioè riflettere se costituisce reato e, se costituisce reato, di quale reato stiamo parlando. E questo è l'errore di fondo che ha viziato l'indagine dei pubblici ministeri a Napoli. Guardi, avvocato, la cosa che mi colpisce è che mentre ho fatto tutta questa lunga introduzione per dire che non stavo parlando della campagna elettorale, le reazioni degli ascoltatori, che temevo, sono 7 su 10 a dirmi che sono una serie di lunghi epiteti perché sto facendo campagna per Berlusconi. Ripeto, non stiamo parlando di Berlusconi, i politici implicati in questa indagine erano per lo più assessori o comunque consiglieri comunali di maggioranza del centro-sinistra a Napoli e in provincia. C'è anche però nelle intenzioni nell'impianto accusatorio del PM un bel côté bipartisan, abbiamo con noi anche l'onorevole La Boccetta. Apposta ho deciso di parlarne perché non c'è neanche l'ombra di una ipotesi che stiamo facendo qualcosa che invece immediatamente negli ascoltatori oramai tribalizzati intorno a questa faccenda che per il 99% i magistrati hanno sempre ragione. No, i magistrati sbagliano e perdonatemi, i magistrati quando sbagliano a carcerare la gente non ne rispondono. Questo è il piccolo particolare che a me per la prima laurea in legge mi ha sempre un po' colpito e interrogato, a dire la verità. Mi ha sempre un po' colpito e interrogato, anche se i tempi del referendum per la responsabilità civile del magistrato, la parte in cui mi riconoscevo allora, noi siamo stati dalla parte dei magistrati, non dalla parte di chi proponeva il referendum. Certo, poi di fronte però ad alcune cose che capitano come queste, io mi pongo il problema come giornalista, avete capito? Ecco, io vorrei semplicemente che a casa gli equivoci non ci fossero su questo, perché ripeto, quando stiamo parlando di gente che si è suicidata e così via, non potete pensare sempre solo che il problema sia Berlusconi sì e Berlusconi no. C'è un problema di civiltà, dell'ordinamento giuridico, di garanzie nel processo che riguarda tutti. Questo è la mia voce nel deserto. Onorevole La Boccetta, per lei questa vicenda che cosa ha rappresentato e che cosa se ne può trarre, in questo caso come parlamentare, non dico come prosciolto, ma come parlamentare, sul problema in generale del circo in cui la parte mediatica prevale e anticipa la condanna eventualmente affibbiata o non affibbiata, come in questo caso poi nel processo? Ma guardi, noi siamo di fronte a una vicenda veramente kafkiana, allucinante, perché in effetti qua si è costruito un processo dove non vi erano reati. È stato dimostrato, diciamo, scientificamente, con le conclusioni alle quali è giunto il magistrato Campoli, che un magistrato che ha la sua posizione culturale ben nota, quindi non si può dire che è un filo berlusconiano, e la questione politica in questa vicenda non c'entra nulla, c'entra soltanto il fatto che qui abbiamo di fronte una categoria, quella dei magistrati, che quando sbaglia non paga dazio, ed è la cosa sulla quale la politica deve riflettere, ma tra la politica tutta, non la politica di destra che sta al governo o di sinistra che in questo momento sta all'opposizione. Noi dobbiamo fare come parlamentari tutti quanti insieme uno sforzo per valutare se sia il caso di fare finalmente quella riforma dove diciamo, si chiariscono effettivamente i ruoli, proprio per il principio di civiltà giuridica al quale facevate primo riferimento. Non è pensabile. In questa storia si è trattato un reato o presunti reati della pubblica amministrazione. Non avevano quei pubblici ministeri alcuna competenza specifica in materia, quindi sono andati a cadere nel grave errore, un errore che ha costato, come ricordavate, la vita a un amministratore pubblico, Giorgio Nunes, che oggi voglio qui ricordare, anche perché mi è dispiaciuto quello che si disse all'epoca da parte del sindaco di Napoli, l'Aeroporino, quando lei disse si è ucciso in un sussulto di dignità. Oggi tutti ricordano Nunes, quella frase è un po' agghiacciante, così come quell'altra frase che disse il sindaco dell'epoca, sempre l'Aerborino, ancora sindaco, quando disse che i suoi assessori erano sostanzialmente degli incapaci. Il termine quello degli sfrantummati, lo dico per chi ci ascolta, è un termine che a Napoli significa persone assolutamente non capaci. Io non voglio mettere giudizio su nessuno, ma non si può scaricare per salvare la propria immagine tutto sugli altri quando cade una tegola di questo tipo. È una vicenda che fa riflettere tutti. Io ho presentato da tempo una proposta di legge, e su cui adesso spingo pesantemente dopo la campagna elettorale, perché proprio perché non voglio confondere le questioni, sulla responsabilità dei magistrati. Chiederò la calendarizzazione di questa proposta, spero che vi siano esponenti anche dell'altra parte politica, cioè della sinistra, che vorranno condividere con me questo percorso. D'altronde, quando si sta fuori dalle kermesse elettorali, il buon senso ci spinge in questa direzione. Ma io sto aspettando, e con me io credo che debbano aspettare, le scuse pubbliche di questi magistrati. Io so che la presunzione di questi signori è tanta e tale che non chiederanno scusa a nessuno, ma nel frattempo gente è stata massacrata, un imprenditore ha avuto quello che ha avuto e ancora deve stare sotto questa vicenda che, ripeto, è una vicenda costruita senza reati, lo vedremo in prosieguo anche per quelli che sono ancora dentro. Me la sono studiata, io che in quel momento non avevo nessuna carica pubblica e non svolgevo nessun incarico di partito, stranamente, ma io so bene perché sono stato diciamo coinvolto, tra virgolette, in questa vicenda, ma lo spiegherò in una fase successiva, dopo i clamori della campagna elettorale. Bene, ora un po' di pubblicità, poi abbiamo Gambale e ci ha raggiunto anche Claudio Velarde. La reazione del pubblico è molto tosta e mi becco la mia raffica. Che volete a casa? Se siete convinti che vi stia ammannendo un attacco unilaterale ai magistrati, vi sbagliate. Io mi pongo il problema di una macchina in cui l'informazione è la cosa fondamentale. La reazione che hanno avuto le testate, di cui si è stato fatto il nome perché hanno preso i verbali coperti dal segreto a Trani, che adesso additano gli altri giornali che si pongono il problema se non sia giusto perseguire i colleghi che violano il segreto e sbattono tutto sui giornali, è una reazione che la dice lunga su come l'informazione preferisce sparare i titoloni per le copie e per l'attenzione. Giustamente io capisco che voi siete a casa e pensiate anche che sia meglio sapere piuttosto che coprire lo schifo che fa la politica e le imprese colluse con la politica, però il problema è che questo sistema poi genera anche dei mostri che producono vittime, e questa, secondo me, il pensare che le vittime siano il giusto prezzo da pagare in nome della trasparenza assoluta è una modalità da tagliatore di teste. Io questo penso. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando del caso Alfredo Romeo e di tutti i politici coinvolti in questa indagine alla Procura di Napoli, arrivata poi a sentenza e la sentenza è un proscioglimento generale con la caduta di tutta l'accusa, innanzitutto di quella più grave, l'associazione a delinquere, il proscioglimento pieno di tutti i politici di ogni partito coinvolto, dei funzionari pubblici della comune, della provincia, eccetera, per Romeo e per il provveditore, l'ex provveditore delle opere pubbliche Mautone, resta solo una condanna per un capo minore dei 12 rispetto agli 11 caduti, cioè questi due operai raccomandati, e resta poi naturalmente l'irrisarcibilità del suicidio di Giorgio Nunes che si appese a casa sua a Pianura. Stiamo parlando di una vicenda che, come tante volte, suscita molti echi e crea molti danni, e poi magari va diversamente, molto diversamente rispetto a come i pubblici ministeri immaginavano. Chiedo a Giuseppe Gambale, già parlamentare ed ex assessore al comune di Napoli, la cui vicenda politica ha subito un danno appunto anch'esso in questo caso pesantissimo, che è tornato per così dire alla vita civile, che cosa questa vicenda dopo la sentenza di proscioglimento gli fa restare in bocca, nella testa, e anche per il suo impegno politico? Ricordo a chi ci ascolta, al di là di come la pensiate politicamente, Giuseppe Gambale è un politico che si è impegnato moltissimo per la trasparenza della vita pubblica. Ripeto, poi rispetto se qualcuno la pensa diversamente da lui, io stesso non la penso come lui, però insomma non è un politico che proprio su temi come questi avesse detto o fatto poco nella vita. Che cosa le resta di questa vicenda? Certamente tanta amarezza, ricordando le cose che lei diceva, riascoltando i servizi del TG3 e di tanti altri giornali, puoi immaginare come abbiamo vissuto questa storia, no? È una storia incredibile che però credo ci pone tutti all'attenzione alcune questioni. E ne ha toccate secondo me due o tre fondamentali. Uno è quello dell'informazione. Io credo che il processo deve avere la sua giusta pubblicità, i cittadini hanno il diritto di sapere sempre tutto quello che è possibile e doveroso che sappiano, però si pone il tema di una sproporzione enorme tra la fase accusatoria, la fase della custodia cautelare, la prima fase che è tutta unicamente gestita dall'accusa, e poi un oblio. Nessun giornale, non voglio fare polemica con nessuno, dottore, ma nessun giornale, nessuna testata ha dato conto delle tesi degli avvocati, nessun giornale ha dato conto di tutto ciò che accadeva durante il processo. E siamo passati dalla fase terribilmente accusatoria, in cui, mi si consenta, ormai siamo passati dalla presunzione di innocenza alla presunzione di colpevolezza. Io prima arresto qualcuno, lo sbatto sui giornali, prendo spezzoni di telefonate, tutte chiaramente in senso accusatorio, e poi l'imputato deve dimostrare che è innocente. Noi abbiamo ribaltato i principi della nostra Costituzione in questo momento. E soprattutto, essendoci un oblio lungo, un silenzio lungo su tutte le tesi difensive, poi ci si meraviglia se si arriva a una sentenza di assoluzione piena. Ma chi conosceva le carte, chi conosceva il processo, non si è meravigliato, perché era evidente fin dall'inizio, 48 ore dopo il mio arresto domiciliare, il mio avvocato disse che erano reati di chiacchiere e beneficenza. Io sono stato accusato di corruzione perché l'imprenditore Alfredo Romeo, che è e resta un mio amico, aveva fatto un versamento di beneficenza alla fondazione di Don Luigi Mero e il parroco Anticamorra. Cioè, è stata una vicenda incredibile in cui, ripeto, si pone un tema forte del ruolo dell'informazione, che deve esserci, secondo me. Noi non dobbiamo nascondere ai cittadini le cose. Io non sono berlusconiano e non intendo diventarlo. Però condivido, io, ecco, da medico dico spesso la diagnosi di Berlusconi è esatta, e la terapia, che magari io non condivido e penso che ce ne debba essere un'altra, ma la terapia va fatta, che il sistema si è distorto, questo è sotto gli occhi di tutti, come anche quello delle intercettazioni. Questo è stato un processo, un'inchiesta e un processo basata unicamente sulle intercettazioni telefoniche come unica fonte di prova. Allora, il principio di legalità deve valere per tutti, deve valere per i cittadini, per i politici, deve valere anche per i magistrati. Le intercettazioni si fanno quando ci sono indizi di reato preesistenti, non si fanno a strascico, e a queste intercettazioni vanno cercati riscontri. Io credo che se tutti applichiamo il principio di legalità, forse qualche danno nella vita civile, democratica e anche personale, se mi consente, di tanti cittadini, si può evitare. Oh, tra i pochi ad essere intervenuto con un commento dopo la sentenza, che ha avuto, come inevitabilmente avviene, uno spazio sui giornali totalmente sproporzionatamente minore rispetto a, naturalmente, alle tesi dell'accusa per settimane, che hanno travolto la vita di tutti gli indagati, c'è stato Claudio Velardi, ex già assessore regionale in Campania, di professione, insomma, esperto di comunicazione politica. Io gli pregherei di aspettare un secondo, perché facciamo due telefonate prima di ascoltatori che ci hanno chiamato e poi gliele facciamo commentare. Intanto buona giornata e grazie a Velardi. Allora, cominciamo con Geremia da Napoli. Geremia, ci sente? Sì. Prego, dica. No, io sono un amico di Giorgio Nunes e ricordo praticamente la persona. Adesso, rispetto a questa cosa, il tipo di indagine che è stata fatta è un'indagine sul reato che non era stato ancora consumato, nel senso che si è pulita l'intenzione, e questo lo fa solo la Chiesa, perché i comandamenti puniscono le intenzioni, ma non può punire lo Stato. E adesso mi chiedo, chi risarcirà il povero Giorgio, che praticamente, rispetto anche alle cose che diceva Gambale, che saluto, e che praticamente è stato sottoposto a un bombardamento mediatico che purtroppo ha avuto l'effetto che ha avuto, e ci siamo ritrovati poi ad avere un amico in meno. Grazie Geremia, io mi associo, e non sembri, come invece vedo dalle reazioni terribili che stanno arrivando sugli SMS, che stiamo aprendo alcun processo ai magistrati. La questione non è quella di, mi sentite dire che sono dei delinquenti da appendere, che sono orientati politicamente, apposta il caso Romeo non indica ciò di cui parliamo abitualmente nella campagna elettorale. Dico che il problema esiste, però, tutto qua, e questo lo dimostra. Sentiamo Fabio da Agrigento come la pensa. Prego Fabio. Buongiorno a tutti e agli ascoltatori. Io volevo un po' esprimere qualche perplessità sul dibattito che c'è questa mattina. Prego, dica. Studio. Se ha la pazienza. Come no. Intanto mi sembra di poter escludere, come dire, un orientamento della magistratura, visto che, come dire, tra le persone che sono state imputate di questi reati, poi prosciolte, comunque c'erano sia da una parte che dall'altra. Quindi cade questo primo principio, per così dire. Che però, io non ho avanzato, e quindi vorrei. No, vabbè, ma io diciamo se si dovesse immaginare di un sospetto, questo non c'è, dice lei, giustamente. Poi io sto semplicemente esprimendo la mia opinione, spero, sì, di avere la possibilità, insomma, sono sicuro di averla. Il secondo principio è che comunque alla fine questa gente è stata prosciolta, quindi vuol dire che comunque la magistratura, in un modo o nell'altro, il processo funziona. Questa è stata gente colpita da misure cautelari, poi nel processo è stata prosciolta, mi si dirà sicuramente, però questi qua sono stati messi ai domiciliari, eccetera eccetera, e quindi i magistrati hanno, i PM hanno sbagliato. Ma a questo punto si può soltanto indagare o imputare la gente colta in flagrante, se i magistrati hanno queste difficoltà e poi devono essere, come dire, accusati di avere completamente errato un'indagine, se poi gli imputati vengono assolti. Secondo me, io trovo che sia un po', come dire, un po' strano questo ragionamento. Io ho molto rispetto sia per quelle persone, tra quelle che, diciamo, che sono state prosciolte, ovviamente, sicuramente, anche per quella persona, se non ricordo il nome, che si è tolto la vita, ma ho sicuramente molto rispetto per quei magistrati che lavorano nel meridione d'Italia. Io sono uno che abita ad Agrigento e che, secondo me, abitano e operano in delle zone dove fare il mestiere di magistrato è doppiamente difficile che non farlo, per esempio, a Novara o a Vercelli o a Manto. Io volevo semplicemente dire questo. Per carità, Fabio, ma infatti io sto dando atto che la maggioranza delle reazioni oggi, Fabio, è concorde con lei, in realtà, vedo dalle SMS, quindi si figuri se io non rispetto il suo punto di vista. Io penso che la maggioranza la pensi così, e la questione non è quella di immaginare che i magistrati siano orientati politicamente. La mia tesi è diversa. La mia tesi è che c'è un patto di ferro che lega da 12 anni tra le varie correnti il meccanismo di autogoverno della magistratura per l'assegnazione delle reti apicali, degli uffici giudiziari apicali in tutta Italia, e credo di sapere di cosa parlo. Non c'entra più la vecchia differenza tra magistratura democratica a sinistra e correnti più moderate o di centro, magistratura indipendente, unità per la Costituzione. È un vero patto corporativo anche in quella parte della vita italiana, che è quella che riguarda la vita interna di questo ordine, perché così si chiama nella Costituzione, che è diventato invece potere autoamministrato, che è la magistratura. Di fronte a questo credo che talvolta l'idea di amplificare un pochino il radicamento delle fattispecie penali per fare un po' di pulizia, un po' con metodi spicci nella politica di qualunque colore, beh, possa essere una forte attrazione per i magistrati. Secondo me la questione non è quella di dire siete anti-berlusconiani, siete... No, il punto è che quando di un impianto accusatorio non resta in piedi nulla, e quando per questo impianto sono stati richiesti, e certo poi consentiti anche da un GUP, misure di custodia che travolgono irrimediabilmente nomi e carriere politiche, irrimediabilmente, perché tu intanto sei fuori da tutto. Sì, si può pensarla così, ma secondo me bisogna, come giornalisti che sono parte essenziale di questo meccanismo spietato, bisogna porsi qualche problema. Delio da Roma, prego Delio. Buongiorno, io chiamo unicamente perché mi è sembrato che manca il rappresentante dell'accusa del tribunale, nessuno che è lì dei suoi ospiti che difenda questi giudici. Voglio dire, così come sono non sono colpevoli quelli condannati in primo grado, anche quelli assolti in primo grado, visto che c'è un appello, il nostro ordinamento lo prevede, il nostro ordinamento è differente di altri. Comunque quello che mi interessa è questo. Cioè, lei lo sa che in nessun, quasi praticamente nessun altro paese avanzato, dopo una assoluzione in primo grado, c'è il diritto di ricorso al PM, perché ripeto, se poi ti condannano nel secondo, tu un altro giudizio di merito non ce l'hai, e quindi è un controsenso assoluto. Io sono d'accordissimo, difatti l'ho precisato io per primo. Quello che mi viene da pensare però in tutta questa storia è che io, leggendo i giornali così, so che in galera, la galera è piena 99% di povera gente. Se tutta questa povera gente, se avessero avuti gli avvocati di Romeo e degli altri signori, pensi, faccio questa riflessione, se questa povera gente avesse avuto degli avvocati bravi, veri, preparati, e più di uno anche, non so, le galere forse sarebbero mezze vuote. Però scusi un secondo, Delio, perché io non ho capito. Quindi la questione qual è? Che sono sospetti perché hanno dei buoni avvocati? No, No. Allora, lei ha completamente frainteso. No, mi scusi, non voglio fraintendere. Non ho capito. Perché non ho capito se invece sta dicendo che, siccome è oltre il 50%, perché è così, oltre il 50%, ben oltre il 50% dei 60 e rotti mila detenuti che abbiamo attualmente in Italia sono in attesa di giudizio, se non ci fossero queste cose non sarebbero in carcere. Però credo che neanche questo volesse dire. No, io voglio dire che purtroppo la nostra giustizia è squilibrata, perché uno ha la possibilità di difendersi perché ha i soldi, e quell'altro è un avvocato d'ufficio, che poveraccio. Questo voglio dire, ma non contro Romeo questi, no, beati loro che hanno i soldi e si possono difendere. Io dico solo che sono poveracci quelli che non hanno la possibilità di questo difendere. E questo ci mancherebbe, questo sono completamente d'accordo, né ovviamente si ovvia del tutto con il gratuito patrocinio, perché è ovvio che, come lei giustamente ritiene, un conto è un avvocato che si occupa seriamente, quello del gratuito patrocinio fa quello che può, ma non è proprio la stessa cosa. Però non mi sembra anche questo molto pertinente. Eccoci, tornati in studio. C'è chi mi dice vergognati, c'è chi mi dice servo di Berlusconi, c'è chi mi dice questi ascoltatori la stanno massacrando, ci rifletta e cambia argomento, prende parola male dei magistrati, c'è chi mi dice il processo è ancora in corso, chi parla prima del terzo grado è un pirla, ci mancherebbe anche questo, c'è chi dice sentiamo ancora un po', non sentiremo la mancanza di certe persone, possono trovare un lavoro, lasciare la politica, chi è più pulito o no, sì, ma se sono prosciolti, e così via. Questo è il tono largamente maggioritario delle reazioni. Ciò malgrado, ascoltatori, non cambio idea rispetto al tema della trasmissione, al fatto che sia giusto a chi è stato prosciolto dopo essere stato travolto offrire un'occasione pubblica il più possibile paragonabile a quella che ne ha travolto vite, dignità, destini, libertà, patrimoni, e se questo vi lascia indifferente, questa effettivamente è una differenziazione di civiltà tra le chicotese, quelle che vanno con i ferretti degli uncinetto a vedere le teste mozzate, e chi invece ha un'idea di una garanzia nel procedimento come garanzia dell'individuo contro lo Stato che lo accusa. Se si pensa che lo Stato etico debba invece far giustizia preminente e trasparenza a costo anche di condannare nella vita pubblica e nella dignità innocenti, è una differenza di civiltà. E se voi pensiate che questo sia pensare come Berlusconi, ricordatevi di quello che ho detto qualche giorno fa sul fatto che Berlusconi ha stufato, perché io non so che dirvelo, però è una questione di civiltà e di libertà. Claudio Velarde, lei di questa vicenda ne ha parlato prima, nel mentre e durante, non è che lo ha scoperto dopo, si è anche esposto personalmente, mentre tutti, come è ovvio, di fronte a questa vicenda, quando esplodono tendono a tacere. Mi interessa proprio per questo sapere, perché lei è una persona che, conoscendo persone intrecci napoletane, avendo una posizione critica fortemente personale, nessuno la può accusare di far parte del sistema di potere, però ha avuto il fegato di dire come la pensava e poi è rimasto solo adesso a commentare i proscioglimenti. Perché si resta soli? Ma si resta soli perché questo è un paese che si è progressivamente illividito, incattivito, e in cui da molti anni oramai prevale questo giustizialismo diffuso, di cui si ha anche un esempio nelle telefonate che le arrivano, nelle opinioni che le trasmettono a lei. Anche se però io voglio stemperare, diciamo, il pessimismo su questo. Nelle indagini, quelle fatte con serietà, diciamo, la magistratura è agli ultimi posti in quanto a credibilità presso l'opinione pubblica italiana, insieme ai giornalisti, devo dire, e questo, diciamo, stempera, diciamo, l'ottimismo di cui sopra, dato che sto parlando con un rappresentante della simia categoria. Ma insomma, questo per dire che i magistrati non godono della fiducia della maggioranza dei cittadini, e giustamente, perché i magistrati sono diventati non un settore della società italiana con un orientamento politico, perché non è quello il punto, ma sono diventati una casta che si autotutela e che tiene sotto scacco tutto il sistema politico, dalla destra alla sinistra, da Berlusconi al PD, a tutti. E questo perché siamo usciti dalla crisi del 93, dalla crisi di Tangentopoli, nella maniera più sbagliata, cioè con una politica che non ha recuperato forza, credibilità, poteri, e ha lasciato che appunto magistratura e media dettassero l'agenda di questo paese. Questo è quello che io, peraltro, da uomo di sinistra, diciamo una sinistra tutta mia che non corrisponde a quella che c'è, ma insomma da democratico, io rimprovero fortemente a Berlusconi. Altro che essere d'accordo con Berlusconi nell'attacco ai magistrati, io non voglio che Berlusconi attacchi i magistrati, voglio che Berlusconi faccia la riforma della giustizia, perché quella è una cosa assolutamente necessaria nel nostro paese. Perché io sono intervenuto in quel modo? Vabbè, un po' perché queste sono le mie caratteristiche, diciamo, di un uomo, di una sorta di anarchico individualista, diciamo, quale sono, ma semplicemente perché mi trovavo in quel dicembre 2008 a fare l'assessore regionale in Campania, sono stato lì per un breve periodo, e in quel dicembre livido, così triste, così cupo, vedevo rincorrersi prima le voci su quello che stava per succedere. Ci furono giorni e giorni, forse settimane, in cui tutti si ripetevano ossessivamente: sta succedendo qualcosa di enorme, qualcosa di grosso. I giornalisti, pensi, ogni tanto correvano sotto Palazzo San Giacomo, sotto la questura, sotto il tribunale, perché avevano improvvisamente, diciamo, degli allarmi che poi non corrispondevano al momento alla verità. E però tutto questo gettava la città in un clima di assoluta cupezza, clima che poi penso abbia determinato anche il suicidio del povero Nunes. Questa mi sembrava una cosa già pessima in sé. Poi, in secondo luogo, io conoscevo Alfredo Romeo, sinceramente lo conoscevo come una persona corretta, come un imprenditore capace, non pensavo assolutamente, da cittadino, senza avere informazioni ulteriori, pensavo da cittadino che non potesse essere il protagonista di questo sistema Romeo che teneva sotto scacco l'intera politica napoletana. Così già allora, diciamo, mi espressi. E devo dire, non era semplice che lo facesse un assessore regionale questo. Cioè, direi di no. Ma il punto è che in città, poi adesso di questo proscioglimento, che cosa avviene? Cioè, politicamente, chi all'epoca è stato travolto ha ancora qualcosa da dire e da fare nella politica cittadina, provinciale, oppure no? Ma diciamo, al momento no, ma io sinceramente spero di sì. Ora, indipendentemente, diciamo, dai giudizi che si danno sui singoli politici, diciamo, coinvolti nella vicenda, però io spero fortemente, diciamo, che chi poi è stato oggi prosciolto possa tornare ad avere un percorso politico, professionale o quello che si vuole. Ma il problema è che il guasto più grande, veramente terrorizzante, che l'intreccio tra giudice e media fa in queste circostanze è che la reputazione delle persone viene distrutta e quindi naturalmente rimetterla in piedi, una reputazione, come è noto, è la cosa più difficile che c'è. C'è un solo politico, diciamo, che non fu coinvolto allora e non è stato coinvolto oggi, che però poi ha avuto, come dire, la sfrontatezza di parlare sia allora che oggi di delle cose sbagliate, della cinica Rosetta Iervolino. Io adesso questo volevo tenere il più possibile lontano, però è così, cominciare da quello che disse Dugnes, lo abbiamo ricordato. Gambale, posso chiederle in pochi secondi per lei se c'è qualche cosa anche grazie a cui questa vicenda le dà uno spunto per dire in politica tornerò a fare questo e questo? Guardi, io sono contento di fare il medico, il mio mestiere di cardiologo in questo momento. Non escludo di tornare anche nelle istituzioni, la politica la facciamo tutti i giorni, ognuno di noi. Credo che per me, che sono stato etichettato e ho vissuto un'esperienza, tra virgolette, giustizialista negli anni di Tangentopoli, questa esperienza mi ha insegnato sicuramente più equilibrio e sicuramente credo, ripeto, che la cosa fondamentale che tutti devono rispettare è il principio di legalità. Se posso dirle un'amarezza, certo, che mi resta in queste ore, non è per quello che ho passato e per le cose anche ingiuste che ho subito, ma mi resta un'amarezza ulteriore in questi giorni, quello di sentire anche il capo della procura dire faremo appello senza aver letto ancora le motivazioni. Le motivazioni, e ha perfettamente ragione, in nome della legalità, ed è per questo, oltre che per la proporzionatezza dei danni inflitti da pene che non sono quelle giudiziarie ma sono quelle mediatiche e pubbliche che fanno parte della custodia cautelare, che oggi io ho voluto fare questa trasmissione sapendo che mi sarei preso molti ceffoni da molti ascoltatori, ma fa parte secondo me anche questo del mio mestiere, con rispetto per tutti. Grazie a Giuseppe Gambale, a Medeo La Boccetta, a Bruno Vonà e a Claudio Velardi. L'appuntamento a domani. Grazie a regia Fabio Cantadori, Alessandro Marco Turli, redazione, la linea Giornale Radio.